Ci sei, Eleonora? Certo che ci sono. Oh, con te abbiamo sempre parlato di teatro, ti abbiamo ospitata qui al Radioteatro con le tue performance. Questa volta parliamo di cinema perché esce il tuo primo film, sei un esordiente. Sì. Incapace. Intanto complimenti, ne abbiamo già parlato dopo la proiezione per la stampa. Ah. Insomma, è un film che mi è piaciuto e insomma sicuramente consiglierò. Per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? È un film difficile da dire in breve, perché sì, in realtà, non avendo una trama formale, non posso riassumerlo in poco. Direi che è un incontro, scontro tra corpi umani, materia, vitalità, angoscia, divertimento e struggimento. Oh, sono tante le tematiche. Non lo so che cosa sto dicendo. Ah, sì. Tante. Comunque, voglio solo dire che ci sono anziani e adolescenti a confronto. E questa è già una bella scelta. Molto... anziani e adolescenti a confronto, tutti del popolo, tutti delle campagne, delle periferie romane e di Terracina. Questi anziani e adolescenti a confronto in realtà non sono interviste ed è un film che non vuole documentare nulla. Sono pezzi di vita, degli squarci, delle cose che io sono riuscita a carpire molto intime di queste persone, riguardanti il sesso, la morte, la religione, la famiglia, la scuola. Sono tutte reazioni che io ho fatto avere a queste persone parlando con loro e che poi ho montato. Chiaramente è tutto astratto, perché queste persone poi sono vestite da antichi greci, ci sono delle inquadrature a cui mi sono ispirata a De Chirico, quindi c'è mio padre da badante anche per esempio vestiti da astronauti, e poi spiego perché. Ci sono campagne, boschi, persone sepolte, persone sugli alberi, ragazzi che rotolano, abbaiano, cantano, però ecco, non è che è uno zoo. Sono tutte cose mirate che anche si ricollegano al mio lavoro teatrale, che poi non è un teatro, insomma, che come tu sai molto, diciamo, appunto anche quello narrativo, per appunto far uscire fuori la parte umana, diretta, impulsiva delle persone dentro un linguaggio materia artificiale. Sì, sì, sì, sì. La prima grossa impressione è la grossa disponibilità di queste persone a parlare di sé. Ma si vedrà nel film solo l'estratto, l'essenza. Il lavoro di montaggio che ho fatto soprattutto nella seconda parte con Marco Tecce è un lavoro di montaggio insieme agli altri collaboratori, ma nella parte finale è stato molto importante perché l'ho smontato varie volte. Voi nel film vedete solo un estratto, ma in realtà dietro c'è un lungo percorso che io ho fatto con ognuno di loro. E quindi la facilità è anche come io mi ponevo, perché io mi ponevo in un modo molto semplice, diretto, e in fondo le persone hanno voglia, no, di esprimersi. Era come tra il gioco e la follia, e quindi si sono lasciati andare. Tornando alla scelta, ecco, tu dicevi i pittori anche che ti hanno ispirato dal punto di vista della composizione dell'immagine figurativo. Questi movimenti di scena e queste scenografie urbane e agreste, come le hai pensate? Come ti è venuta fuori quest'idea? Mi è venuta ispirandomi alla pittura di De Chirico, al surrealismo, e soprattutto perché volevo togliere l'impatto naturalistico, non volevo niente di realistico. Volevo far uscire una realtà, e quindi per far uscire una realtà come io la vedevo dovevo ribaltare e dovevo fare qualcosa di artificiale, cioè installarla. E quindi mi è venuto in questo senso qui, lungi da me di fare qualsiasi cosa che avesse un sapore vagamente realistico o documentaristico. Sì, è un sì, film in questo senso. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, Eleonora, dalla tua lunga esperienza teatrale, com'è stato il passaggio al cinema? Perché il cinema? Com'è venuto questa idea? Il passaggio al cinema è avvenuto in maniera molto naturale per me. Volevo fare questo lavoro e ho usato il cinema per interpretarlo. Non è che c'è una cosa nella vita, insomma, mi avete proprio un artista indipendente e avevo da tanto questa necessità di usare. Ho usato lo stesso Marco! Stop all'intervista! Scendo! Scusate, devo scendere perché mi continuo a parlare con te. Andreina, rimani qui. Scusate. È il bello della diretta. È il bello di la diretta, ecco, devo dire sotto il banco, ma spiego come sta a prestare i soldi. E poi se non so.